Gabriele Maschiazzi, buonasera, ben trovato, ben sintonizzato, come va? Aspetta. Perché? Ah, eccoti, ci sei, ci sei. Però tu dici a me che non mi preparo, ma poi arrivo qui, volumi abbassati. Lo so, c'era Claudia, quindi abbiamo fatto, capito? Baldoria, cose su, una cosa sul mixer. Sul mixer, cose, manate, vabbè. Allora, un po' di per rispondere a qualche messaggio. Grazie, scusa lo sfogo. Non c'è problema, Luca, è davvero in bocca al lupo a te. Grazie per la dritta sul grab, stemmio con gioia, almeno c'è musica. A 33 giri, per caso Bazzucchi ti ha spiegato cosa hanno fatto i radicali oggi? Oggi no, non abbiamo fatto in tempo, però lunedì me lo faccio spiegare. Può essere che anche dal mio stereo scrauso della macchina sento un suono diverso. Alessandra, penso proprio di sì. Lo ha sentito Vasquez con le cuffiette. Adesso siamo tornati in digitale, questo è digitale. E questa invece è musica molto liquida. Celluite e celluloide, allora abbiamo le prime rubrichette, ieri la scorsa settimana abbiamo parlato, intanto volevo chiederti com'è andato la pagina di Facebook su Cowboys and Aliens? Allora, su Facebook abbiamo optato per una diversa modalità questa settimana perché casualmente, ma solo per caso, ci siamo organizzati un po' male, siamo un po' all'ultimo momento, quindi diciamo che ci eravamo dimenticati che mancava solo una settimana. Comunque, abbiamo fatto una cosa diversa, abbiamo fatto una cosa, diciamo, più prestigiosa, ecco. Abbiamo, attraverso un raffinatissimo quiz da me personalmente elaborato sotto la doccia, quindi una cosa veramente altissima, abbiamo selezionato il più pro ed esperto e veloce tra gli ascoltatori aderenti al gruppo e l'abbiamo mandato a vedermi. Lui è un'altra persona, quindi abbiamo messo in palio due posti, l'abbiamo mandato a vedere il film. Lui si è molto divertito e ci ha anche mandato una recensione. Vai, leggiamola. Adesso la leggerò io con una certa enfasi. Sì, però non farla buttar via perché l'ha fatta bene, eh. Bah, insomma, vabbè, come eccezione così. Non è un professionista, ecco, voglio avvertirvi, insomma. Già, non, vabbè, comunque. Già metti le mani avanti. Beh, sì, insomma, è un simpatico amatore, ecco. Allora, recensione di Luca Annunziata di Cowboy contro Alieni, il cui titolo della recensione è Cowboy contro tutti. Ah, è già questo. C'è una valutazione in sé. La verità è che dopo gli indiani, i messicani, gli orsi e i coyote, i russi, i cinesi e i nordcoreani, gli americani avevano finito i nemici. E allora bisognava pescarli altrove, in particolare nello spazio. E siccome non vale la pena arrivare sempre su Pandora per sterminare una razza aliena, meglio se si fanno vivi nel vecchio West e in particolare nel New Mexico. Che bravo. Bravo, che penna. Mamma mia. Sembra che scriva di lavoro. Lì troveranno ad aspettarli Harrison Ford e Daniel Craig, pronti a gonfiarli di botte a suon di Colt e Remington, perché quando l'alieno con la pistola laser incontra l'uomo con la sei colpi, l'alieno con la pistola laser è un alieno morto. Qui c'è una raffinata citazione. Non è che sono ascoltatori così. Cowboy e Alieni è un film girato molto bene, buona fotografia, buona regia, ottimi gli effetti speciali, sonoro d'impatto, ritmo serrato. Le due ore seduti in poltrona scorrono via abbastanza velocemente, il film non stanca e anzi appassiona dopo i primi minuti di spiazzamento, probabilmente voluto. Peccato che nella foga di tirar dentro ogni possibile citazione agli stereotipi western, guerra, fantascientifici e pure un po' hard-boiled, gli sceneggiatori si siano dimenticati di innestare una trama nel girato. C'è anche qualche buchino nella continuity, ma pazienza. Bisogna dirlo. Questo è duro, eh? Bisogna dirlo, tutto sommato non se ne sente troppo la mancanza. Merito senza dubbio del regista, che è lo stesso di due capolavori di genere come Iron Man e Iron Man 2, che ci mette del suo e non delude. Craig, in evidente crisi d'astinenza da 007, offre la consueta prova da duro. Ford, imbiancato ma non troppo, ormai riveste magistralmente il ruolo del burbero che sotto sotto ha un cuore d'oro. Olivia Wilde, beh, cosa puoi dire di lei? La rivelazione dell'anno 2010, 2011 e volendo pure 2012. Bella, anche qualcosa di più che bella, all'altezza del compito, anzi ci mette pure del talento. Con quegli occhi nella luce del deserto del New Mexico non ne avrebbe bisogno. È un poeta, è un vero film, poeta. Da sola riempie già lo schermo. Anche i comprimari se la cavano bene, benché a tratti sembri quasi di vedere un film parodia, tanto i ruoli sono ingessati in una sequela di caratteristi. Vabbè, questo è un professionista, dai. È un vero professionista. Basterà questo a fare di Cowboy Alieni un blockbuster? Forse sì, anzi sicuramente. È perfetto per il weekend di ogni santi, c'è dentro tutto, ma proprio tutto. Non piacerebbe agli appassionati di western, che non è western. Non piacerebbe agli appassionati di fantascienza, che non è fantascienza. Si inserisce nel filone di Star Trek di J.J. Abrams, con cui condivide un paio di sceneggiatori e produttori. Ecco, se vi è piaciuto quello, vi piacerà anche questo. Soddisfacente, rilassante, esaltante, coinvolgente. Non proprio, ma se la cava. Finale aperto? Sì, quel possibile. Bravo, veramente bravo, potrebbe sicuramente tranquillamente prendere il tuo posto. Non credo, ma comunque. Insomma, la recensione è fatta bene, veramente. Ma una recensione la può azzeccare chiunque, è la continuità, la continuità. Le mani più avanti di così non potevi metterle. Allora, questa è la recensione del nostro ascoltatore che abbiamo mandato a vedere Cowboy e Alieni. Magnanimamente. Sì, va bene. Ma partiamo con la prima rubrichetta. Allora, la prima rubrichetta direi lanciata. Aspetta, c'è la sigletta, aspetta. Tutte le sai. Me ne perdo una, prego. Allora, dicevo, come prima rubrichetta io direi di lanciare quella del il tuo film preferito. Cioè, prenderemo un ascoltatore tra quelli che chiamano. Possibilmente l'unico che chiamerà, perché non chiama nessuno. Io avrei detto il primo, però possiamo dire anche l'unico che chiama, il quale avrà 5 minuti, 10 minuti, insomma, un tempo così stringato per parlare del suo film preferito. Perché il suo film preferito? Perché gli piace? Cos'è? E un attimo anche confrontarsi, un minimo installare un cineforum. Una tavola rotonda. Esatto, una tavola rotonda. Quindi il primo che chiama il 4359-8889. Perfetto. Mentre qualcuno piano piano fa il numero, penso nessuno, faremo un buco nell'acqua di quelli senza precedenti, possiamo passare alla seconda rubrichetta. Siamo alla seconda, che è la rubrica del home video, dove per home video non intendiamo solo DVD. Aspetta, sigletta. Quanti ne hai? Prego. Dove per un video non intendiamo solo DVD, diciamo, intendiamo un senso più lato di un video. Tutti i film che potete vedere a casa, non necessariamente sui canali televisivi. Insomma, tutti i film che potete vedere sul televisore. Pronto? Pronto? Hai visto che già c'era l'ascoltatore? Io lo sapevo. Allora, come ti chiami, da dove chiami? Bella questa. Gibbo Pomezia. Gibbo Pomezia. Pomezia. Bene. Sì. Pomezia. Ma senti, posso fare una premessa? Premesse non si fanno, sono fastidiose. Fai quello che vuoi. Rischio la figuraccia, stavo seguendo e non seguendo perché ho un po' preso anche da una cosa. Quindi non ho sentito perché cosa. Però hai fatto il numero, bravo. Partecipiamo, non ho chiamato, ho chiamato io. Vedi gli ascoltatori. Prego, devi parlare. Prego, tu. Allora, qual è il film preferito della tua vita? Ti diamo tempo, ti diamo tutto il tempo. Tantissimi, mi viene in mente, che ne so, 2001 Odissea nello spazio. Ok, perché? Cioè, perché questo film è così importante nella tua vita? Cosa ti piace di questo film? Innanzitutto mi piace tutto quello che ha fatto Kubrick, perché è assolutamente geniale, fuori dagli schemi. È stato molto più avanti di tutti, e poi anche perché veramente questo film è al di sopra anche della sua altissima produzione di altissimo livello. Senti, ma c'è un momento tuo preferito di questo farlo film? Farlo parlare, però adesso non in casa. Non ti ho capito, scusa, che hai detto? Cioè, hai un momento preferito del tuo film? Allora, intanto considera che non lo vedo, che io ho una certa età, penso più o meno coetaneo di Faster, e non... No, io sono giovane. Avanzatissima, quindi. Ok, siamo giovani quanto Faster e non lo vedo da, penso, 20 anni, forse di più. Però, comunque, forse il momento in cui si ritorna bambino, ecco, insomma, che fa praticamente chiude il cerchio. Ah, bellissimo, nel grande finale con che ritorna la musica dell'inizio, sì. Il grande, sì. O anche quando c'era, non so, la stalattite nera, adesso non mi ricordo come Il monolito. Sì, il monolito, sì. Senti, invece voglio sapere un'altra cosa, tu che allora, se sei appassionato di 2001, voglio sapere, hai mai visto Solaris, che è il contro 2001? Sì, l'ho visto, se non sbaglio che era quello col papà di quello di Wall Street, adesso mi sfugge il nome. No, Solaris era russo, era quello che alcuni venne fatto da... Michael Douglas, Kirk Douglas. Una stazione orbitante circolare dove c'era anche Douglas. come si chiama? Douglas Padre, se non Kirk sbaglio. Douglas. Kirk, sì, Douglas. Sì, no, non è quello, no, no. Quello è un altro film molto bello, tra l'altro. Sì, sì, quello di Solaris invece era il film che fecero i russi per contrastare il 2001 che stava nello spazio, perché non accettavano che gli americani avessero il film sullo spazio così bello, così importante. Ah. E vabbè, niente, se non l'hai visto, niente. Quindi va bene, possiamo salutare il nostro ascoltatore. Jimbo, ti salutiamo, ti ringraziamo e grazie per essere stato il primo. No, pensa, il primo, il più veloce, tra l'altro, tutti quelli che hanno provato. Migliaia. Esatto. Migliaia. È incredibile che tu sia riuscito a prendere la linea. Sì. Un saluto, grazie, ciao. Sì, però tu non le incalzare, perché beh, in effetti, forse sono no, un po' perché incalzante. Poi sembra che gli vuoi impedire di parlare, capisci? Ah, sarebbe un'impressione molto sbagliata. Esatto, potrebbero essere fuorvianti. È vero, è vero. Vabbè, allora dicevamo, seconda rubrichetta. Allora, la seconda rubrichetta è quella appunto dell'home video, che è più home che video, insomma, cioè tutto quello che potete vedervi a casa agevolmente. Quindi, sia che lo prendete in DVD, sia che lo comprate o noleggiate da internet, lo vedete. Quindi, allora, tra i film recenti, diciamo, che sono sicuramente disponibili in buona qualità in un video, questa settimana io ve ne consiglio due, anzi tre. Il primo è Corpo Celeste, è un film italiano che ha figurato benissimo all'ultimo Festival di Cannes, era in una sezione molto piccola e parallela che si chiama La Quinzaine des Réalisateurs, è una sezione che prende le opere prime. E è di Alice Rohrwacher, sorella di Alba Rohrwacher, ed è un film bellissimo. Racconta di una bambina del nord Italia che si ritrova a Catanzaro, se non, o Reggio Calabria, insomma, comunque si ritrova in una città della Calabria a contatto con una realtà che lei non capisce, ma soprattutto a contatto con la Chiesa. È un certo modo di intendere la religiosità tipicamente meridionale, si ritrova anche in altre parti d'Italia, però insomma è solitamente identificata dal meridione. Ma il film va oltre questa trama, è veramente un film molto delicato, molto interessante, molto molto molto forte. Si chiama Corpo Celeste e sono sicuro che lo potete trovare. L'altro film è un film che non è uscito al cinema, è andato direttamente in DVD, ma non era male. Si chiama Arturo ed è il remake di Arturo, la commedia anni 80 con Dudley Moore, che è il miliardario ubracone. Allora, e poi ne hanno fatte due. In che senso due? Arturo e Arturo 2. Ah, è vero, hai ragione, dai, l'avevo rimosso, hai ragione tu. Sì. Il secondo è forse ancora più bello del primo. No, io preferisco il primo. Ma non ti ricordavi forse... che ne avevano fatti due? No, non mi ricordavo per niente. Adesso che mi ci fai pensare, stavo per dire, forse perché io ho visto più volte il primo del secondo, quindi ce l'ho pure più fresco. Questo remake, allora, diciamolo subito, non è all'altezza, quindi se volete vi potete anche prendere Arturo originale. Però è molto carino, è molto carino. Il punto è che non c'è Dudley Moore a fare la storia è questa di questo miliardario ubriacone che però poi ha tutto un suo senso, cioè ha tutto un suo stile di vita, c'è un motivo per cui è ubriacone, poi ha una sua storia d'amore, un sentimentalismo, è molto anticonvenzionale come commedia. E in questo remake alcune, come spesso capita, alcune asperità, alcune durezze del film si perdono, per cui è un pochino più acquietato. Però secondo me è comunque valevole e soprattutto è qualcosa che non si trova, non avete potuto vedere al cinema, e è uscito unicamente in DVD. Ultimo film, questo è stato un po' un evento, è uscito ieri in DVD e quindi quando esce in DVD anche su internet si può noleggiare più facilmente, è The Tree of Life, che è stato qualche mese fa, è stato insomma tra i film più amati e contemporaneamente odiati tra quelli usciti al cinema, ha vinto il Festival di Cannes ed è finalmente rivedibile in Blu-ray, insomma in altissima definizione, a parte che chi l'ha visto storto perché la Cineteca di Bologna proiettavano la parte alla fine all'inizio lo può vedere dritto, ma soprattutto ha tutta una serie di è uno di quei film che vanno rivisti, secondo me è un film che visto una seconda volta acquista moltissimo, per cui vale sicuramente la pena vederselo in un video. Allora, era da diverso tempo che mi frullava l'idea di acquistare un giradischi, l'ho fatto spinto dal comprare il jazz in edicola, tutta un'altra storia, ho voglia di buttare tutti i CD e neanche dire che ho un super impianto. Metti Pastorius, grazie e complimenti Sil, Pastorius non ce l'ho qui al momento. Indubbiamente per me di 2001 la scena migliore è l'inizio e qui invece un ascoltatore batte cassa. Ah, ecco. Però a chi telefona dovreste regalare dei bellissimi gadget. Grazie. Sempre più difficile. Allora, però possiamo fare così, possiamo fare così. Ci cimentiamo. Esatto. Li cerchiamo. Ah, sicuro? No, sicuro non tutte le settimane, questo è sicuro. Però ogni tanto ne entro in possesso e quindi possiamo... Magari un biglietto per il cinema? più difficile. Più facile è un gadget relativo a un film, più semplice. Ah, prima devi passare attraverso me. Sì, quelli che rimangono dopo che tu te li sei presi. Vabbè. E quindi possiamo passare, visto che abbiamo fatto tutte le rubrichette, ai film della settimana. Oh, Cowboy Alien. La recensione è quella vera, diciamo. Adesso facciamo strada ai professionisti. Fammi salutare. Ciao. Dicevo, facciamo strada ai professionisti. Allora, Cowboy Alieni, una cosa: il western e la fantascienza sono due generi, nonostante sembrino diametralmente opposti, sono estremamente simili, nonostante si svolgano solitamente in due epoche completamente differenti e abbiano contesti completamente differenti, si basano sullo stesso assunto: il fatto di andare e scoprire una terra selvaggia. Nel west è il confine, la frontiera, la terra che appunto non è stata ancora colonizzata, nello spazio è l'ignoto. Tant'è che una delle prime cose che fondevano fantascienza e western era Star Trek, che iniziava dicendo spazio ultima frontiera, e che subito lo connotava come praticamente un western. E nel tempo in molti hanno cercato di cavalcare questa componente della fantascienza, che sia comunque, cioè il fatto che in un luogo totalmente sconosciuto, silenzioso e misterioso, in cui quasi ci sei solo tu, può succedere di tutto e ti puoi trovare a contatto con te stesso, che è un po' la cosa alla base anche del western. L'altra recensione era più diretta, più precisa. Questa fa tutto un preambolo suo. Tra l'altro, per le persone che vagamente hanno la mia età, anche vagamente, dico che secondo me la più grande opera che riassume western e fantascienza è Galaxy 999, che era un... prima un fumetto e poi una serie animata giapponese straordinaria che fondeva alla perfezione. Allora, Cowboy e Alieni non fa... il sapientone fa, guarda, butta lì le cose. Esatto, citazioni, io cito, e cito letteralmente. Cowboy e Alieni non fa niente di tutto questo. Cioè, non è né un film western, non ne ha nulla, nonostante la gente vada a cavallo e abbia il cappello. Non ha nessuna caratteristica del western e non ha nessuna caratteristica della fantascienza, benché ci siano gli alieni. È un film d'azione hollywoodiano, e come film d'azione è anche buono, insomma, è intrattenente. E soprattutto... è un film in cui, secondo la tipica struttura americana, l'eroe solitario ha il supporto della comunità, cioè c'è un eroe che la comunità supporta. Mentre invece nel western solitamente è il contrario: l'eroe viene mollato. Pensate a Mezzogiorno di Fuoco: l'eroe viene mollato dalla comunità e di nuovo si trova solo. Invece questo qui, appunto, è un tipico film d'azione. Secondo me è estremamente godibile, ma nulla di memorabile. C'è sempre un ma. Vabbè, i tre moschettieri. Oh, i tre moschettieri. Ah, questo è veramente interessante, perché io ero entrato pieno di pregiudizi, strano. Ero entrato pieno di pregiudizi perché pensavo, ma sì, ma dai, ma i tre moschettieri, ma poi in 3D, ma soprattutto io non sopporto il regista di questo film, che è Paul Anderson, che è quello di Resident Evil, di tutti questi film qua. E all'inizio veramente volevo alzarmi e uscire dal cinema, perché comincia in una maniera assolutamente inaccettabile. Cioè, mette i tre moschettieri a Venezia e li presenta con uno che emerge dall'acqua, uno che si butta dai palazzi, l'altro che sfonda le pareti. Ma e vanno in una specie di cripta progettata da Leonardo da Vinci, cose inesistenti, con tutti dei meccanismi non si capisce alimentati da cosa, con tipo Indiana Jones, e quando vai su una mattonella spuntano gli spunzoni, fatto da Leonardo da Vinci, una cosa senza senso. E evitano tutte queste trappole piegandosi all'indietro al rallentatore tipo Matrix. È una cosa proprio... fermi tutti, io me ne vado, torno a casa e vado a dormire direttamente. Dopo questo inizio veramente straniante, però, il film comincia a decollare, perché la butta non tanto sul cinematografico, che veramente va male da quel punto di vista, ma sul fumettoso, cioè come fosse un grande fumettone, un fumettone steampunk. Lo steampunk è quel genere che mette la fantascienza nell'Ottocento, cioè le macchine a vapore, infatti ci sono vascelli volanti. Ah, come gli uomini che fecero l'impresa là. Più o meno, sì, esatto. Però più fumettoso, colori sparati, capelli strani. A quel punto comincia veramente a funzionare. Cioè, veramente è un film che ingrana tantissimo. Quindi è un film di fantascienza? Sì, ottocentesca, sì, praticamente sì. Fantastoria anche, perché teoricamente ci sta la Francia, l'Inghilterra, i rapporti politici, però è tutta fantastoria, chiaramente. Ma loro che sono supereroi, che sono invincibili? Sì, praticamente sì, non hanno superpoteri, però insomma, 4 contro 400, quelle cose così. A un certo punto fanno anche a spadate, fondendo spadate e arti marziali orientali, cose veramente senza senso. Però è divertente, insomma, è godibilissimo, che già è una sorpresa. Il 3D, ma che ve lo dico a fare, praticamente come se non ci fosse. Però adesso mi hai ricordato una cosa, adesso lo dico dopo. Io sono, prima di venire qua, ho visto un film in 3D pazzesco, con un 3D della Madonna. Poi ti dico che insomma, Matrimonio a Parigi con Boldi. Settimana che viene lo vedo. E insomma, godibilissimo veramente, ma soprattutto io ho scoperto davvero, cioè ho fatto una riscoperta, che non è che ho scoperto l'acqua calda, ho scoperto una riscoperta, un'attrice straordinaria. Cioè ho capito veramente la grandezza di Milla Jovovich. Milla Jovovich, bravissimo. Ah, Milla Jovovich. Allora, una vita dedicata alle fregnacce, cioè non ha un film serio in filmografia, vero. Non ha neanche uno, ma nessuno come lei ci mette l'impegno, la serietà, la professionalità. Io penso che lei in tutta la sua carriera abbia meno battute che Woody Allen in un suo solo film, ma è sempre personaggi memorabili. E in questo film risalta molto perché gli attori protagonisti sono un disastro. Un disastro proprio, ma proprio fuori parte. Ma che film è? I Tre Moschettieri, sempre. Lei sta in Tre Moschettieri. Ah, nei Tre Moschettieri? Sì. Sono tutti fuori parte, sembra. Sembra veramente che stiano lì, non sanno perché. Christoph Waltz, che è il nazista di Bastardi senza gloria, che è un attore straordinario. Qui sta veramente con la mano sinistra, fa il cardinale Richelieu, ma veramente non si impegna per nulla. Lei invece... Ma non c'è neanche nel cast Christoph Waltz. Christoph Waltz, fa il cardinale Richelieu, uno dei primi ruoli, sta sulle locandine. Ah, quindi c'è. E lei Orlando invece... Bloom, Logan Lerman. Lei invece profonde, un impegno senza senso, è bravissima, fantastica. Dimostra 30 anni ormai da 20 anni, anche quando non li aveva li dimostrava, e veramente trovo che sia l'unica vera possibile interprete di questi film, l'unica credibile, l'unica seria, nonostante abbia tre scene, però è memorabile, guarda. Vabbè, il film 3D qual era? Allora, poi mandiamo la pubblicità, allora, annuncialo e poi suspense. Ci sarà un sacco di suspense a questo mio annuncio. Pina 3D. Pina 3D. Hai visto che velocità? Perché la suspense. Certo. Allora, Pina 3D. Pina 3D. Pina 3D. Oh, anzitutto fammi controllare, perché l'ho visto proprio oggi quando esce. Esce il 4 novembre. Allora, Pina 3D è l'ultimo ma film... Ma non facciamo la recensione. Sì. Cos'è? Di che stiamo a parlare? Anche perché, sai, l'ho appena visto, quindi non la recensione deve restare un po', capito? Deve maturare dentro. Esatto, maturo delle convinzioni. Poi devono ancora pagare, capito? Insomma, aspettiamo. Pina 3D è l'ultimo film di Wim Wenders, e Wim Wenders negli ultimi tempi, cioè questo è almeno il terzo film che fa in 3D, perché lui è sempre stato un fissato con le nuove tecnologie del cinema, e da quando c'è il 3D è matto per il 3D. Già ne aveva fatto uno italiano che si chiamava Il Volo, girato in Calabria, e ora fa questo Pina 3D, che è un film su Pina Bausch, la coreografa tedesca di balletto moderno contemporaneo. È un film molto particolare, nel senso che sono quasi tutti balletti di Pina Bausch, ambientati in diverse location, fotografati in una maniera veramente straordinaria, con un 3D di una profondità, di una serietà nell'impiego che mi ero dimenticato. Cioè, quando mi sono messo gli occhiali ed è partito, ho detto: ah, ecco, mi ero dimenticato com'è il vero 3D, il vero che 3D. Profondità. E non faccio recensione, basta, finiamo, lascio qua. Basta. Sono d'accordo, hanno solo... In Guerre Stellari ha il gilet, fa il contrabbandiere, la sua apparizione avviene in una cantina stile messicano, se non è western questo, scrive Danilo. Giustissimo, Guerre Stellari è un altro film che prende tantissimo dal west, veramente molto. Poi Cowboy Bebop. È vero, hanno ragione, Cowboy Bebop è un'altra serie di animazione a cui non avevo pensato che fondere due cose, però secondo me Galaxy 999... azzecca ancora di più quelle componenti della fantascienza che si travasano nel western. È perfetto proprio. Va bene, This Must Be The Place. This Must Be The Place, il nuovo film di Paolo Sorrentino, attesissimo perché è un film fatto in America, girato in America, con Sean Penn protagonista. Quel film, cioè, sono tutti i cartelloni per Roma di questa faccia da Sean Penn che sembra Robert Smith. Anzi, alcuni hanno detto che sembra Enzo Salvi in un suo personaggio. In effetti poi non è sbagliato, è un po' somiglia. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa: non è un film americano, cioè è un film fatto in America con grandi produzioni, attori americani, ma soldi tutti italiani, quindi è anche maestranze italiane, cioè lo straordinario Luca Bigazzi alla fotografia, che è il più grande direttore della fotografia italiano lavorante, cioè di quelli proprio in attività al momento, ed era molto atteso perché era passato a Cannes, si parla, poi vediamo, di mandarlo agli Oscar, ma non come miglior film straniero, mandarlo agli Oscar in tutte le categorie proprio, perché è girato in inglese, quindi se è girato in inglese può gareggiare in tutte, e, cioè in realtà anche se non fosse girato, però non può stare nel miglior film straniero, visto che è girato in inglese, e secondo me è una grande delusione. Cioè è un film assolutamente esatto. E secondo me agli Oscar non ci va. Questo non viene selezionato, secondo me, perché è, poi verrò clamorosamente smentito, però secondo me è un film dove veramente non si vede quasi nulla del Sorrentino, del divo, dell'uomo in più, delle conseguenze dell'amore. È un viaggio attraverso l'America, perché è la storia di questa rockstar degli anni 80, che sono ormai 20 anni che si è ritirata dalle scene, però continua a vestirsi e truccarsi come negli anni 80, che alla morte del padre viene a scoprire che il padre, che era stato nei campi di concentramento, cercava il suo aguzzino nazista. Allora lui si mette sulle tracce di questo aguzzino per completare questo lavoro e fa un viaggio in tutta l'America. E questo viaggio nell'America è veramente inconcludente, cioè è un grandi paesaggi, grandi riprese, poco Sorrentino, cioè pochi dialoghi taglienti, pochi personaggi memorabili. E poi non vi dico chiaramente come finisce questa caccia al nazista, però è veramente scialbo. Un film che non sa di nulla. Veramente un peccato, perché le premesse c'erano tutte, perché Sean Penn poi si impegna moltissimo, fa questo ruolo molto strano di questo, appunto, di questa rockstar poi super sensibile, che parla con la vocina, sempre truccato, e ci mette veramente molto impegno, però proprio no. Nonostante tutto sembri girare nella direzione giusta, niente. Va bene, ma parliamo invece di Un poliziotto da Happy Hour. No, ma matrimonio a Parigi. Poi a Parigi esce tra una settimana, lo vedo settimana che viene, c'è tutto il tempo di vedere sto film di Boldi, veramente con molta calma verrà visto questo film. Che so debole de cuore io. Arrietty. Arrietty. Sai che non so se posso parlarne di Arrietty, perché tutto l'ho visto primo. Ma questa settimana ho visti tutti. I Want to Be a Soldier. Sono due film di cui non so se posso. Dico perché non so se posso parlare. Perché sono due film che sono passati lo scorso anno al Festival del Film di Roma, per il quale io lavoro e di cui sono stipendiato. Per cui sarebbe, insomma, un po' un conflitto di interessi da parte mia parlare di questi film. Poi va a finire che ne parlo benissimo e quelli dicono: ecco, sei stipendiato, sei stipendiato. Poi ne parlo male e mi licenziano. Allora ho preso secondo me per la seconda che non uno sì, uno no. Decidete voi quale. Uno che è dello studio Ghibli e l'altro che è prodotto da Valeria Marini. Di uno ne avrei parlato bene, di uno ne avrei parlato male. Quello poi di Valeria Marini avresti parlato. Non siamo a dire non quale, che non posso dirlo. Però uno dei due è carino. Amici di letto, prego. Amici di letto. Oh, allora, Amici di letto è il secondo film che esce così in pochi mesi. Sei stupito che so tutto sta settimana. Mappa. È il secondo film che esce in pochi mesi, che ha come tema il fatto di due amici che si mettono a avere una relazione sessuale senza voler stare insieme, in sostanza. Da cui il titolo Amici di letto. L'altro si chiamava Amici amanti e puntini puntini, questi straordinari titoli italiani. Questo qui è con Justin Timberlake e Mila Kunis. Allora, una cosa, anzi diciamo le due cose fondamentali in una commedia romantica, perché comunque stiamo parlando di una commedia romantica, sono: uno, sceneggiatura, cioè che insomma che ci sia una sceneggiatura a livello che abbia, che non sia eccessivamente comica, ma che abbia le sue parti di sentimento ben integrate con le parti di commedia, è molto difficile. Fammi chiudere. Prego. Qui già. Vediamo. E l'altra cosa fondamentale è l'alchimia tra i protagonisti. Ogni commedia sentimentale ha un uomo e una donna che cercano di avere una relazione e hanno diverse difficoltà. E il modo in cui interagiscono proprio gli attori, l'alchimia che si crea tra i due, la credibilità e la vicinanza che riescono a raggiungere è determinante. In questo film Justin Timberlake e Mila Kunis funzionano molto bene, la sceneggiatura è un po' meno. È un film non eccessivamente divertente né eccessivamente sentimentale, che gira intorno a rimesta un po' nel noto, ma lo fa con stile. Quindi è un film di quelli già visti, con una trama già sentita, che non vi regalerà nulla di eccezionale, ma lo fa con stile, quindi secondo me è altamente vedibile. Giovanni scrive: ecco. This Must Be the Place è una paraculata di Sorrentino, che rifà a modo suo la versione americana di Viaggio in Italia di Rossellini. No, ovviamente con le dovute proporzioni. Adesso? Sì. Che dici? Questa cosa di Viaggio in Italia, che sia simile, vi racconto cos'era Viaggio in Italia, perché sennò magari il pubblico non sa. Viaggio in Italia è un film di Rossellini in cui due stranieri viaggiano in Italia, e in questo viaggio in Italia ritrovano una dimensione panica del loro amore, cioè insomma ritrovano le vere sensazioni umane, perché vivevano una vita più fredda, eccetera eccetera. Si è parlato molto del fatto che questo film di Sorrentino potesse essere una specie di viaggio in Italia al contrario, un tra virgolette viaggio in America. Secondo me non siamo assolutamente da quelle parti, perché non c'è una riconquista del... cioè Viaggio in Italia parlava di persone che vivono in città fuori da un terreno forte, perché poi Rossellini era fissato con la territorialità, anche Stromboli, Terra di Dio e così, che arrivano in Italia in un luogo che non conoscono, si trovano a contatto con una certa terra, certe persone, un certo modo di vivere, e riscoprono parte di se stessi che credevano dimenticate. Questo non accade a Cheyenne, che è il protagonista di This Must Be the Place. Lui compie un viaggio e lo compie in America, ma poteva essere anche la Germania, cioè non incontra mai il vero specifico americano, né nelle persone che incontra né nei territori. Ci sta il lago di sale nello Utah, ci stanno i canyon, le città di provincia, ma sembra sempre che questi paesaggi non abbiano mai impatto nel personaggio. E secondo me in questo, che è una cosa proprio voluta, infatti sta scrivendo la Madidina che scrive su Skype, infatti è un rifacimento fallace. Ma no, perché secondo me è proprio Sorrentino che non vuole battere quel percorso, va da un'altra parte. Sta scrivendo, c'è la pennetta che fa. Per non parlare dei touring point forti come un grissino. Questa non l'ho capita, devo dire. Per non parlare dei touring point forti come un grissino. No, mi spiace, non l'ho capito. Perché questo sta... Giovanni non, sta avanti. Forse, non ho visto con attenzione il film, forse questo. Bella botta, eh? Ah, bella botta. No. Vabbè, andiamo mi avanti. Sembra di essermi difeso con una certa sapienza. Ecco. Paranormal Activity... No, hai voglia. Activity 3. Ancora esce. Paranormal Activity 3. Devo no, bere. No, esce tra un bel po', eh? Ah, cavalli. Cavalli pure, cioè tu ti stai portando avanti Bar con delle Sport. Cose. Sono finiti i film, ce ne sono più. Un poliziotto da Happy Hour, ti posso dire, di quelli che già ho visto, per cui sono già avanti col lavoro. Allora, un poliziotto da Happy Hour è, nonostante questo ignobile titolo italiano, in realtà si chiama The Guard, è un film irlandese, che questo sì che è un western, è un film di poliziotti, quindi ambientato nella contemporaneità, nella modernità. È un film potrebbe essere a vederlo un poliziesco, ma in realtà ha un respiro molto da western, perché c'è un uomo che vuole fare il suo dovere a dispetto di una comunità che sembra fregarsene di quale sia il dovere, e si trova da solo con come sempre il classico l'unico alleato, con un unico alleato come paladino di un valore assoluto, cioè il bene, la giustizia, eccetera eccetera. È una storia che poi ha tutta una parte, come spesso accade ai film inglesi o irlandesi, molto di commedia. È un film che ha tutta la forza in questo personaggio principale, di questo poliziotto scorrettissimo che nel tempo libero va a prostituire, che beve come una spugna, che poi ha anche dei tratti da Tenente Colombo, cioè che sembra un po' scemo ma in realtà poi ha sempre il guizzo forte, perché in realtà il regista di Il poliziotto da Happy Hour già aveva sviluppato questo personaggio in altri film, ma questa volta ne fa un vero lungometraggio. Il protagonista dove sta? Il protagonista prende delle decisioni con motivazioni assolutamente poco plausibili, tipo inizia il viaggio perché uno sconosciuto incontrato in una tavola calda gli presta la macchina, punto. No, oppure non è uno sconosciuto, è un suo amico di vecchia data. Oppure inizia la caccia al nazi, perché? Allora, lo sconosciuto non è sconosciuto, è un suo amico di vecchia data. E la caccia al nazi la inizia perché il padre che è morto, lui viene a sapere che il padre morto, che non vedeva da una vita, aveva questa ossessione e lui si sente in dovere, visto che il padre non l'aveva visto allora da una vita. Allora Giovanni mi sta cadendo su. Visto che lui non l'aveva visto da una lo da banniamo, una vita, lo banno? Basta, per sempre. Lo banno. via, fuori di qui! E quindi inizia questa caccia per questo motivo, per come per rendere omaggio, che si sente in colpa nei confronti del padre per averlo quasi dimenticato. Stai bannando? Sto rispondendo. Vabbè. Poi un altro film interessante che era abbastanza atteso, che ho visto questa settimana, ma esce settimana prossima, però è molto molto atteso e anche giustamente, è Melancholia. Melancholia è il nuovo film di Lars von Trier, è quel film che vi ricorderete sicuramente. Quando passò a Cannes, ci fu la conferenza stampa, von Trier se ne uscì malissimo, con delle battute per niente divertenti sul nazismo e l'ebraismo, e fu cacciato dal festival. Presentava questo film qua, che chiaramente poi non ha nulla a che vedere con nazisti e ebrei. Anzi, è stranissimo, perché Lars von Trier è un regista, come probabilmente sapete, autorialissimo. È un regista austero danese, quello di Dancing in the Dark, Leone del Destino, Dogville. E ha fatto questo film che è un catastrofico, cioè è un film sulla fine del mondo, sull'impatto micidiale di un meteorite sul pianeta Terra. E questa è la prima scena che si vede. La prima scena che si vede sono con una musica classica e un rallenti, devo dire, bellissimi, e delle immagini molto belle. Questo meteorite gigante che impatta la Terra con una violenza estrema, distruggendo tutto. E il resto del film si svolge prima, quindi tu dall'inizio già sai che finirà con un mega impatto e la distruzione di tutto quanto. Racconta, come spesso capita nei film di von Trier, una storia di famiglia. Somiglia vagamente a Festen, che era un film di Winterberg che però aderiva al medesimo movimento di von Trier, cioè il dogma, però ha tutti i crismi dei film di von Trier. Soprattutto, ve lo dico perché so che non è stato apprezzato, è molto simile ad Antichrist, non tanto nelle asperità e nella violenza, quanto nel prediligere tempi allungati, una dimensione estetica veramente veramente forte. Infatti da vedere è molto bello, nonostante poi il direttore della fotografia sia cambiato e si concentra meno su altri aspetti. È un film che io particolarmente non ho amato, sebbene von Trier spesso mi abbia soddisfatto parecchio. Un lontano cugino trova casualmente un quaderno con gli appunti di caccia del padre, tutto piuttosto didascalico e debole. Insomma, this must be the place, è una fuffa. Ma su questo sono d'accordo. Beh, vabbè, chiudiamo la pagina. Ecco. Non l'ho bannato. Vabbè, per questa volta. E, insomma, Melancolia, secondo me, è von Trieriano solo per alcune straordinarie immagini che riesce a riproporre, però non fa quel lavoro di racconto che solitamente io personalmente apprezzo molto, in fin con appunto Leone del Destino. Ma era uscito anche Paranormal Activity 2? Sì, ed era pessimo e sconsigliabile. Io temo che il 3 difficilmente risalirà la china. Però vediamo, però io so che... Le avventure di Tintin escono fra il 28, fine mese. Sì, Le avventure di Tintin uscirà il 28 e ci sarà un'anteprima al Festival di Roma che inizia il 27. Anzi, io che sono non potrei fare pubblicità al Festival di Roma, però da oggi è possibile comprare i biglietti, per cui chi volesse, non dovete sentirvi obbligati, ma chi volesse, sono dei film bellissimi, specie nella sezione extra. Ma insomma, Arriet, se vuoi te ne posso parlare. Arrietti, scrive Giovanni. Lo so anch'io, però questa è la trasmissione mia nella quale, siccome lavoro, non credo, insomma, adesso non so, non voglio certo oscurare con la mia ombra ingombrante, per carità, mannaggia, ma insomma, comunque. Sai, io ci tengo alle regole, ecco, è più che altro questo. Anzi, bomboni che escono, dimmi. No, volevo consigliare un ultimo film, volevo accennarlo perché poi ne riparliamo meglio settimana prossima, perché esce, perché veramente, sul serio, questa è una sorpresa grossa, io non l'avrei mai detto, e parlo di Una separazione. Questo film esce il 21, ma qualcuno potrebbe averlo già visto, perché in questi giorni hanno fatto una retrospettiva asiatica qua a Roma e questo film c'era in anteprima, quindi magari qualcuno già l'ha visto. È un film iraniano che non ha nulla di iraniano, questo è veramente una sorpresa. Il regista di questo film già era venuto con un film in Italia che si chiamava About Ellie, che sembrava un'avventura di Antonioni. Questo qui è completamente diverso, è un film di sceneggiatura scritto benissimo, serrato, forte e pieno di colpi di scena. Racconta la storia di un uomo molto benestante, che vive appunto nell'Iran di oggi, a Teheran, un uomo molto benestante con un padre che ha l'Alzheimer, quindi praticamente invalido, che assume una donna meno benestante per badare al padre. Tra i due ci sono una serie di problemi, cioè ci saranno proprio delle... A un certo punto lui sostiene che lei gli abbia rubato dei soldi, che abbia avuto della noncuranza nel trattare il padre. Comincia come una battaglia che va a finire anche legale, ma i colpi di scena che succedono e quello che faranno i protagonisti, che uno sembra buono, uno sembra cattivo, ma poi non sarà così, è veramente sorprendente. È un film che vi tiene attaccati alla poltrona, veramente. Io ve lo consiglierò quando uscirà, si chiama Una separazione ed è il più bel film iraniano che io abbia mai visto, per cui, se non altro. Scopri come tutto ebbe inizio, Paranormal Activity 3. Un prequel. È un prequel. Non hai capito. Va bene, allora parliamo di Super con Rainn Wilson, Liv Tyler, Ellen Page, Kevin Bacon. È un filmone questo. Frank, allora, è un uomo normale sposato con la travagliata Sarah, di cui è follemente innamorato. Ma quando lei decide di lasciarlo per Jacques, uno spacciatore dai modi suadenti, Frank si trasforma in una specie di supereroe. The Christmas Bolt, privo di superpoteri ma armato di una pesante chiave inglese. Con la sua nuova identità, Frank si mette sulle tracce di Jacques e ingaggia una persona alla lotta contro il crimine, aiutato da Libby, una teenager sociopatica che lavora nel negozio di fumetti del quartiere, che assume l'alter ego di Boltie. Allora, ti è piaciuta? Era perfetta, guarda. Cioè, vedevo le immagini del film che mi scorrevano davanti. Sì. Allora, Super, come avrete intuito, si inserisce in quel filone dei film su supereroi, ma in realtà un po' preso in giro, cioè dove i supereroi non sono super, è gente normale che si cuce un costume, solitamente disadattati. Però che forza ha? La forza di Super è che è diretto da James Gunn. James Gunn è un regista che viene dai film della Troma. Tu ti ricordi i film della Troma? Quelli tipo Toxic Avenger? Ah sì, ce l'ho. Lui, esatto. Terribile quel film. Sì, terribile. Una cosa. Lui viene da quei film là, cioè quei film di serie, non so, Z, serie veramente terribili. Sì, che vogliono essere di serie Z, film fatti con 4 lire che si deve vedere che sono fatti con 4 lire. Però chiaramente questo qui è un film hollywoodiano a basso budget. Ma la sua straordinaria forza, sa che è nel non dimenticare da dove è venuto, cioè da quei film violenti, estremi e anche molto scorretti della Troma. Quindi questo Super, che racconta appunto di un uomo che si cuce un costume da supereroe per salvare sua moglie che l'ha mollato, ma che lui vede poi essere presa in un giro di droga. Allora, anzitutto la sua forza numero uno è il fatto che questa persona è un incredibile bigotto. Questa persona che si mette il costume, è il suo supereroe di riferimento, è il personaggio di una serie televisiva che si chiama The Holy Avenger, ed è un supereroe cattolico, e lui si fa influenzare da questa cosa e decide di riparare ai torti, anche torti senza senso, del tipo una persona che passa avanti alla fila, con una violenza incredibile, una violenza totalmente smisurata che James Gunn mostra senza risparmiare nulla. Quindi è un film estremamente efferato. E questa violenza ha un grande senso perché lui, nonostante nel film sembri non farlo, cioè sembri esaltare l'eroe come si fa in qualsiasi altro film americano, in realtà condanna moltissimo questo modo di fare, questo giustizialismo, questo modo di fare bigotto che non tollera altro, non tollera l'essere tradito, non tollera la droga, tutto quello che non è nelle regole. Addirittura questa ragazza, la giovane sociopatica che si invaghisce di lui perché scopre che lui è questo vendicatore violentissimo, a un certo punto vuole fare sesso con lui e lui rifiuta perché non si fa, perché lui si considera ancora sposato. Io trovo che rispetto a un film come Kick-Ass, che pure era un film molto bello, questo Super abbia una forza completamente diversa, veramente scardinatrice, che usando i mezzi di Hollywood va contro ogni morale hollywoodiana, va contro tutto quanto e propone un'altra visione di mondo, molto meno americana in questo, molto più europea, molto meno bigotta, insomma è veramente un film interessante. Mi chiamo Marco, sto viaggiando da circa un'ora. Marco, arriverà tra qualche minuto la colonna sonora di Donnie Darko. C'è il film della Guzzanti sulla 7, passa parola, tu l'hai visto? Ne ha fatti vari di film, non so quale film dica lui. Boh. Ha fatto quello Dracula, su quello che è successo all'Aquila, ha fatto il Segreto dell'Aragosta e un altro ancora prima che purtroppo mi sfugge in questo momento, non mi viene in mente, comunque c'era un altro prima. Se è Dracula, secondo me è da vedere. Dracula è insospettabilmente interessante. A questo punto, questo mi presta il fianco per dire una cosa che io non vorrei mai dire, è talmente a fagiolo. Mamma mia, ieri che è stato presentato il programma del Festival di Roma, pensa proprio nella sezione dove lavoro io, dimmi un po'. C'è il nuovo film di Sabina Guzzanti. Mamma mia. Aspetta, mo ti dico cos'è. A me non è mai piaciuta Sabina Guzzanti, neanche questo, quando faceva le imitazioni, banale. A me. Ma questo, secondo me, ci stai anche tu, che è un film altamente da proprio da vedere. Io poi già l'ho visto, per cui ve lo consiglio ancora di più. È un documentario che lei ha fatto su Franca Valeri. E il fatto che un personaggio come Franca Valeri, con tutta la sua unicità che può rappresentare, sia fatta da un altro come Sabina Guzzanti, che chiaramente non è a livello, però appartiene alla famiglia di comici più grande d'Italia, questo è sicuro. Comunque ha un background, un'esperienza del mondo non particolare. Soprattutto era stata Franca Valeri a dire qualche anno fa che tra quelle che lei vedeva solo Sabina Guzzanti poteva essere teoricamente una sua non erede, aveva gli persona. Occhiali probabilmente. Ma che mi dici di Rachel Nichols in Conan il Rabarbaro? È la cosa più bella di quel film, nettamente. Ah, viva Zapatero, mi dicono fan. Ah, viva Zapatero, a me non era piaciuto per nulla. Ne parlammo anche qui, vero? Sì, sì, sì, ne parlammo. Io proprio non la... è più forte di me, proprio non riesco. Però guarda, questo documentario che si chiama Franca la prima, i biglietti li potete già comprare, è veramente mamma mia, dammi un po' di soldi, io sto facendo pubblicità, è veramente proprio, che vergogna. Chiama quelli del festival, fatti dare i quattrini, no? Fatti dare i danari. Io ce li ho. Lo so che ce li hai. Ma a volte i rifiutori, ne ho talmente tanti che li rifiuto, insomma, non è che posso. Anna è fantastico. Andrea. Anna. Anna è un film che è uscito quest'estate, non abbiamo parlato perché è uscito agosto. È un film molto particolare che a me, devo dire, non è piaciuto, ma è molto particolare, quindi in effetti non metto in dubbio che potrebbe piacere. No. Immortals. Immortals deve ancora uscire. Lo so. Non l'ho visto ancora. Anonymous. Nemmeno, ho visto questa settimana. Real Steel. Ancora hai voglia? Hai voglia. Lo so, Io sto cercando di dare fuori i bomboni. Ho visto Johnny English. La cosa? No, hai voglia. Che è remake? Remake della cosa di Carpenter. No. Che era a sua volta remake della cosa della di Hux. Cosa, sì, certo. Io ho visto Johnny English, che è il nuovo film con Rowan Atkinson, che è Mr. Bean. Ah. E esce tra due settimane. A me non mi ha entusiasmato. Se siete appassionati di Atkinson, cioè di Mr. Bean, magari sì, ma insomma. Luca Brett di Scorsese. Hugo Cabret è il nuovo film di Scorsese. È il primo film di Scorsese che ha. È indirizzato a un pubblico giovanile, perché comunque è una storia di quelle natalizie, capito? Hugo Cabret. È il primo film di Scorsese fantastico, cioè che ha un'ambientazione fantastica. C è il primo film di Scorsese in 3D. Sarà molto interessante vedere come sarà. Esce tra un bel po', ma al Festival di Roma faranno vedere 15 minuti. Ma c'è Benvenuti al Nord, attenzione. Quando esce? Aspetta che questa pagina fa le bizze. Esce il 27 gennaio. Hai voglia. Vabbè. Però abbiamo una data. 27, Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Valentina. Salemme, se non sbaglio, no? Sbaglio? No, Giacomo no. Rizzo, Nando Paone, Nunzia Schiano. No, Salemme non c'è. Ah, mi confondo allora. Beh, dopo il bombone del primo. Qual è quel film questo dell'altro anno di... che l'altro anno o due anni fa uscirono tutti quei film italiani che fecero scalafaccio. Nessuno mi può giudicare. Quello con Paola Cortellesi, Raul Bova, andò benissimo, incassò tantissimo. E a seguito c'erano altri film, mi ricordo quell'anno. Beh, uscì Boris, che era bellissimo, ma non incassò molto. Però No, incassarono tutti un sacco di... Dai, quello che fa sempre, che vince sempre, là, fa sempre film. Beh, chi si chiama? Pieraccioni. No, quell'altro nuovo. Napoletano. Barese. Ah, giusto, hai ragione, bravo. Mi ero dimenticato. Checco Zalone che ha fatto quell'anno. Infilò quasi tipo in un anno e due mesi. Riuscì a far uscire Cado dalle nubi e Che bella giornata. I due film incassarono tantissimo. E in quella lista c'era anche Benvenuti al Sud. Che no, capeggiava la lista. Benvenuti al Sud con 35 milioni è tra i più grandi incassi degli ultimi 5 anni, tipo 5-6 anni. Sei sicuro? Ha fregato pure che Zalone? Mi sembra di sì, adesso mi metti il dubbio, però mi sembra che fregò anche Zalone. Però in effetti mi hai messo il dubbio. Controlla? Puoi controllare? Controllo. Vai. Intanto salutiamo i nostri ascoltatori, così resteranno con il dubbio e con la domanda non evasa. Bravo Sandro, te l'appoggio, la guzzante è solo uno strumento politico. Beh, io non lo so se sia uno strumento politico, ma politicamente non è ficcante neanche, insomma, fa anche danni proprio alla sinistra, credo. Niente, No, sto guardando. Beh, dobbiamo andare Donnie Darko, quello sarà sceso dalla macchina, ascoltatore. Un secondo, devo fare la conversione, 18 milioni di dollari. Ma no, in lire... Lo so, devo fare la conversione. Vabbè, mamma mia. Ma no, 18 milioni di dollari sono 10 milioni di euro. Ma no, poi 15 milioni di euro. Vabbè, la diamo la prossima settimana. Sì, diamo la prossima settimana. Diamo la prossima settimana. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo per quel che vi riguarda lunedì, stessa frequenza, stessa radio. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sugo. Grazie Vasquez. È un piacere. Sei rimasto in pappagallito sul monitor. Sì, perché mi sa che ho sbagliato a guardare. Vabbè, non facciamo finta di niente. Perché via. I film sono italiani, non sono americani, quindi... No, però l'ho guardato in un sito americano. Però secondo me calcola solo il 2009 e non il 2010. Vabbè, insomma, devo guardare meglio. Va bene. Non sono cose che uno fa così, cioè, lo so, impegno non, ci si vuole. Dice non sono fiaschi che si abbottano.